Salva Danaio di Deborah Rosciani. E allora trovati un lavoro onesto e non andare in giro a cercare i fessi da imbrogliare. Sì, hai ragione, ma vedi cos'è? Che nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro. No, no, non è vero. Guarda un giornale, conta le offerte di lavoro. E tu conti i fessi e vedi se non sono in esuberanza. Buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Chi meglio di Totò, con Totò Truffa del 61, poteva aiutarci ad introdurre il tema di oggi. Il mercato del lavoro in Italia è sempre più difficile, come attestano di volta in volta i dati che vengono pubblicati dall'Istat, disegnando uno scenario sempre più buio, in particolare per i giovani. I dati Istat di pochi giorni fa indicano che sono almeno 655.000 i giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni in cerca di lavoro. E la ricerca del lavoro si fa sempre più intensa, gli italiani cercano di percorrere ogni strada possibile per trovare un posto. In questo panorama non mancano, purtroppo, gli episodi di annunci falsi, truffe, frodi, pratiche commerciali sleali nei confronti dei cittadini, in particolar modo attraverso il web e internet. Sono molte le segnalazioni che vengono ricevute dalle associazioni dei consumatori che si stanno intensificando negli ultimi tempi. Allora Salva Danaio, in occasione dell'appuntamento settimanale dedicato al lavoro, fa il punto con l'aiuto di alcuni esperti, evidenziando i rischi più diffusi e raccogliendo alcuni consigli preziosi per gli ascoltatori in cerca di lavoro. Vi siete mai imbattuti in una falsa offerta di lavoro? Come l'avete gestita? Raccontatecelo all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Con noi questa mattina Walter Passerini, giornalista, responsabile delle pagine del lavoro della Stampa, esperto e consulente di tematiche legate all'occupazione, già responsabile dell'area lavoro per il Sole 24 Ore del passato e voce nota a Radio 24, perché per molto tempo si è occupato direttamente dai nostri microfoni di queste tematiche. Walter, buongiorno e bentornato intanto. Ciao Deborah, grazie. Tra l'altro, proprio di recente sulle pagine della Stampa hai scritto molto su questo argomento e un aggiornamento, un refresh su queste tematiche è arrivato proprio ieri sulla stampa.it. Crescono le truffe per chi cerca un lavoro, le più frequenti, e un decalogo per difendersi. Un decalogo per difendersi da queste prassi così disdicevoli, per dire poco, lo hanno elaborato due associazioni dei consumatori che insieme stanno portando avanti il progetto Lavoro Sicuro. Parlo di Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino. Noi questa mattina abbiamo con noi il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo, che saluto. Presidente, bentornato, buona giornata. Ci sente? Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Eccoci qua con Longo e allora ci faremo raccontare intanto in che cosa consiste questo progetto Lavoro Sicuro, quali sono le tipologie di frodi più diffuse con i quali i cittadini si imbattono o rischiano di imbattersi, e soprattutto cercheremo anche di dare indicazioni pratiche per difendersi da tutto questo. Io ribadisco, chiamateci all'800 24 00 24 per raccontarci se vi siete mai imbattuti in una falsa offerta di lavoro e soprattutto come la avete gestita. Adesso la borsa. La borsa è positiva stamattina, cerca di recuperare un po' dopo giornate davvero da dimenticare, che peraltro sono state provocate, i cali degli ultimi giorni, soprattutto dall'instabilità politica che è emersa dall'ultima consultazione elettorale italiana. Stamattina a Milano, proprio la miglior piazza, visto che è stata la peggiore delle ultime sedute, oggi almeno recupera un po' di più. FTSE MIB più 1,71%, Parigi più 1,33%, Francoforte più 1,61%, Londra più 0,78%, bene tutti i titoli bancari che sono stati protagonisti nelle ultime settimane di appunto cali davvero rovinosi. Il miglior titolo è Mediobanca più 3,83%, tra gli altri titoli del settore Intesa San Paolo più 2,33%, Unicredit più 2,26%, bene anche Fiat più 3,78%, A2A più 3,18%, Mediaset più 3,15%, mentre in discesa troviamo Prismian e Ansaldo che perdono oltre mezzo punto percentuale. Euro su dollaro a 1,30,34%, spread fra BTP e Bund sempre sui 340 punti base. Per la borsa è tutto, andiamo subito al tema di oggi. Parliamo di offerte di lavoro. Occhio alle truffe. In un anno il numero dei disoccupati è aumentato del 22,7% e come sempre il triste primato spetta ai giovani fra i 15 e i 24 anni. Il 38,7% è senza lavoro. con punte che al sud superano il 50%. Secondo questi dati, gli ultimi diffusi dall'Istat, sono in tutto quasi 3 milioni gli italiani senza un impiego e che quindi presumibilmente trascorrono le giornate alla ricerca di un colloquio, di un'offerta, di una proposta di lavoro. Non sono in molti ad affidarsi a centri per l'impiego, agenzie per il lavoro o altri canali istituzionali. Tra i più utilizzati per la ricerca di un'occupazione, in particolare tra i giovani, spicca sicuramente il web. Se da un lato la rete offre innumerevoli opportunità, anche ad esempio per chi è alla ricerca di un'esperienza all'estero, dall'altro può rivelarsi terreno fertile per brutte sorprese, frodi e proposte poco trasparenti. Offerte allettanti possono nascondere vere e proprie truffe, talvolta richiedendo di versare somme di denaro che non torneranno mai più indietro. È quindi importante fare molta attenzione per evitare che una situazione già di per sé difficile venga resa ancora più critica a causa dell'operato di un disonesto. Un punto di partenza, tra tutti, va tenuto a mente. Diffidare sempre delle aziende che pubblicano annunci in forma anonima. È illegale. Anche le agenzie interinali sono tenute a fornire, se non il nome, una chiara descrizione del settore in cui opera un'azienda e dell'attività che svolge. Ci sono a volte anche naturalmente delle proposte interessanti, corrette e trasparenti che però magari fanno emergere condizioni capestro in un momento successivo. Questo già ce lo stanno raccontando alcuni ascoltatori che si stanno prenotando all'800240024 e adesso cercheremo di metterli subito in collegamento telefonico perché oggi vogliamo arricchire quanto più potremo la nostra trasmissione con delle testimonianze. Walter Passerini, allora nel tuo articolo di ieri appunto hai riproposto un po' i casi più diffusi che si stanno presentando adesso nel mercato del lavoro. La questione più disarmante di tutte è che queste truffe sono in netto aumento in un momento in cui di grossa debolezza del mercato del lavoro nel nostro paese, come dire, la madre dei furbi è comunque sempre incinta. Sì, certo, da un lato è il bisogno di lavoro che spinge le persone ad abbassare le proprie difese, ma dall'altro lato c'è un problema strutturale, cioè il fatto che in Italia il lavoro lo si cerca attraverso la cerchia degli amici e soltanto molto raramente lo si cerca attraverso strumenti un po' più professionali. Se pensiamo che i centri per l'impiego pubblici e le agenzie private non riescono a intermediare più del 6% della domanda e dell'offerta di lavoro, noi capiamo che il 94% avviene in condizioni qualche volta selvagge. Quindi bisogna migliorare l'offerta di servizi seri, professionali contro la TTT, la società, cioè truffe, trappole e tranelli, che invece ha fatturati che sono assolutamente belli gonfi in questo momento. Ecco, tu racconti anche di tanti episodi sui tuoi pezzi di cui hai scritto in questi giorni sulla stampa. Si va dal caso di chi propone un posto di guardia giurata con tanto di divisa, chiedendo però naturalmente al candidato. È successo a Napoli alla fine dell'anno scorso, una società dava addirittura, cioè attirava con una divisa, no? Ti dava la divisa per fare la guardia giurata, tu dovevi pagare da 7 a 15 mila euro e dopodiché ti davano anche uno stipendio, no? La gente ha lavorato anche, così messa di fronte a una banca piuttosto che a un'azienda e così via, e poi alla fine questi venivano pagati con assegni scoperti, assegni falsi, insomma, o inesigibili. Quindi da un lato questa era abbastanza ben organizzata, come qualche volta succede, no? in alcune parti del nostro paese. Poi altre sono, per esempio, rispetto alle donne. Io seguo questo problema, posso dirti, da 30 anni. Devo dire, certo, che quello che è aumentato è la truffa via internet. C'è anche un grosso problema che riguarda le donne. Ecco, io vorrei sottolinearlo perché le donne corrono qualche rischio in più, perché spesso vengono invitate a strani colloqui e poi questi colloqui purtroppo si traducono anche in esperienze molto molto negative. Ecco, tra l'altro magari non sarà un caso allora il fatto che proprio sono due le prime due ascoltatrici che ci hanno chiamato, e allora io direi intanto di cominciare subito a sentirle per poi andare a commentare anche tutto quello che abbiamo detto fino a questo questo momento con Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Peraltro, nel loro vademecum su come difendersi da tutto questo c'è anche una pillola molto dettagliata sul fatto di non accettare ovviamente qualunque tipo di proposta di lavoro che richieda, prima addirittura di iniziare una carriera professionale di qualunque tipo, di versare del denaro, perché è assolutamente assurdo. Eppure molti di noi cadono anche in queste trappole. Sentiamo Elena da Milano, e infatti le è capitato proprio questo. Elena, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci racconti. Allora, sono contenta di avere questa opportunità, in modo tale insomma che almeno anche altre persone appunto non ricadano, infatti proprio insomma il tema poi della vostra trasmissione, non ricadano poi in questi intoppi. E comunque così è stato purtroppo tanti anni fa, perché parlo comunque di una ventina di anni fa, e in ogni caso ero molto giovane. Sono andata a un colloquio di lavoro dove mi è stato richiesto 50 euro, 20 anni fa erano tantissimi, 50.000 lire, adesso non mi ricordo sicuramente, sì. Dove mi dicevano che sarei stata inserita in una banca dati e che quindi probabilmente con questa iscrizione avrei potuto trovare un'occupazione. E certo. Questo non è chiaramente successo. Sono uscita da lì sconcertata, chiaramente, perché dopo io gliel'ho dati, perché pensavo comunque... Di fare una cosa utile, di essere effettivamente magari inserita, sì, oggettivamente. Esatto, avere qualche opportunità in più, sì. Vabbè, Elena, va bene, comunque la lezione l'ha presa e poi chiaramente esatto. Non c'è più ricascata. Qualche volta esatto. Bisogna fargli gli errori per imparare, ne facciamo tutti. Elena, in bocca al lupo per tutto. Sentiamo intanto Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, perché con Adiconsum il Movimento Difesa del Cittadino sta portando avanti questo progetto. Appunto Lavoro Sicuro, hanno elaborato le due associazioni dei consumatori un dossier molto dettagliato che è stato presentato a Roma a fine gennaio, e allora questo lavoro è nato sulla base del fatto che erano davvero tante le segnalazioni che arrivavano ai vostri sportelli, Longo. Sì, erano tante, come le diceva in apertura, si sono moltiplicate e viene da dire drammatizzate proprio in questo momento di gravissima difficoltà economica che trova nella mancanza di lavoro uno dei suoi diciamo aspetti più pesanti. E purtroppo ecco, queste proposte si sono moltiplicate anche con la moltiplicazione della possibilità di offerta, quindi di offerta intendo come mezzi, quindi il web sta offrendo nuove possibilità di truffa e spesso sono quelle diciamo un po' più pericolose. A proposito di donne, ecco, il book fotografico è una delle truffe più diffuse. Si carpisce la buona fede di ragazze che magari sperano di inserirsi nel mondo della moda, della televisione o anche dei giornali, eccetera. Si dice dobbiamo fare un book fotografico che costa 4-5 mila euro. Ecco, a monte però c'è un fallimento delle politiche del lavoro pubbliche. Gli uffici per il lavoro prima dipendevano dal Ministero del Lavoro, gli uffici di collocamento si chiamavano, poi all'inizio del 2000 sono passati di competenza alle province, purtroppo funzionano meglio dove c'è meno possibilità, meno bisogno di lavoro, diciamo nelle regioni del nord, nelle regioni e province più organizzate, funzionano malissimo, per non dire che non funzionano affatto, proprio laddove c'è più fame di lavoro, le regioni meridionali, le province a più bassa occupazione. I consigli sono quelli che diamo nel nostro vademecum: rifiutare assolutamente qualsiasi proposta che preveda un pagamento, rifiutare proposte anonime. Qui oggi Roma è piena di manifesti che dicono si cerca personale laureato, senza dire chi, senza dire che cosa, senza dire per fare dove. C'è un numero di telefono, una casella mail, ecco, queste sono proposte da evitare assolutamente. Certo, noi tra l'altro più tardi ci collegheremo anche con Anna Maria Mazzini, direttore, marketing manager di infojobs.it, che è il più grande portale italiano di raccolta di offerte di lavoro e di curriculum naturalmente di tutte le persone che stanno cercando lavoro, e quindi ci faremo dare dei suggerimenti assolutamente utili anche per poter individuare immediatamente, anche quando abbiamo l'impressione di avere davanti a noi la proposta di lavoro più allettante e più seria possibile, magari c'è qualche segnale al quale possiamo fare attenzione per carpire invece la malafede dell'interlocutore, anche se questo sembra davvero il migliore possibile. Walter, volevo chiederti un commento rispetto a quello che ha detto Antonio Longo sul fatto che comunque oggi sì, le politiche del welfare magari avranno avuto le loro mancanze, le loro lacune negli ultimi anni, è diventato davvero un mondo così selvaggio, così difficile da controllare dal punto di vista dell'offerta? No, diciamo che allora non vorrei che dessimo una rappresentazione così drammatica. Certamente questo tipo di truffe sono aumentate proprio in funzione di un mercato che non è un mercato, quello del lavoro è un mercato clientelare per molti aspetti, ma in ogni caso ha ragione Longo quando ci mette in guardia da alcuni strumenti, per esempio le banche dati. Le banche dati, quelle autorizzate, rispondono al Ministero del Lavoro, quindi diciamo che per fare intermediazione, domanda e offerta, tu devi avere un'autorizzazione e le agenzie, le diverse agenzie, sono un centinaio circa in Italia, non solo mettono il loro nome molto spesso, ma mettono anche il numero dell'autorizzazione. Quindi le banche dati che non hanno un'autorizzazione, degli intermediari che non hanno l'autorizzazione, già questi, come dire, non hanno la garanzia, insomma, e della tutela. L'altra cosa è la richiesta di denaro, davvero mai aprire il portafogli quando si cerca un lavoro, mai, perché nasconde sempre un tranello. Poi ci sono, per esempio, ci sono anche le finte prove di lavoro, Deborah, cioè in sostanza ti dicono: lei venga qui da noi, abbiamo una prova di 15 giorni, benissimo, tu per 15 giorni lavori, e magari loro ti hanno attirato, come è capitato a una ragazza di Prato, che io chiamo convenzionalmente Gioconda, la quale è stata attirata perché le offrivano un posto da impiegata, è andata lì, hanno cominciato a scarrozzarla di qua e di là per la Toscana, e si è trovata in mano delle polizze che doveva vendere o dei contratti anche di società elettriche. La prova ovviamente è andata male e la ragazza non ha venduto nulla, naturalmente, ma c'è invece chi riesce a vendere anche in così poco tempo, e poi dopo la prova c'è il burrone, cioè non c'è nulla, non c'è un lavoro, quindi sono prove infinite, prove ripetute che non garantiscono alcunché. Allora, sono indecisa se sentire il primo blocco di pillole, direi di sì, perché altrimenti rischio di non mandarle, mi dispiacerebbe. Allora, sulla base appunto del lavorone fatto da Movimento Difesa del Cittadino e Adiconsum, anche noi abbiamo rubacchiato tra le loro pillole e vi proponiamo adesso un primo gruppo di esempi di situazioni alle quali prestare molta attenzione. Sentiamo. Lavori a domicilio. Vi promettono grandi guadagni per l'assemblaggio o il confezionamento di prodotti a casa vostra. Ma saranno a vostro carico le spese di invio del materiale da utilizzare, che probabilmente non riceverete. Vendite porta a porta. Vi si richiede un versamento per poter iniziare a lavorare, ma non firmerete nessun contratto di lavoro. Falsi periodi di prova. Con il miraggio di una futura assunzione, lavorate per mesi con orari durissimi e compensi irrisori. Terminato il tirocinio, l'azienda chiude e si sposta altrove. Eccoci qua, 800 24 00 24, per le vostre testimonianze in diretta. Avete sentito le nostre pillole, abbiamo ribadito alcuni concetti già espressi anche da Antonio Longo e Walter Passerini nella prima parte appunto della trasmissione. Forse riusciamo a metterci dentro anche un'altra telefonata prima della pausa. Laura dalla provincia di Ferrara, visto che oggi vorremmo cogliere anche molte testimonianze da parte appunto delle donne. Cosa le è successo, Laura? Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi succede che sono attualmente, per il momento, diciamo ancora per fortuna, un cocopro. Però dal prossimo aprile il mio contratto verrà trasformato a contratto a tempo indeterminato a livello settimo. Questo vuol dire categoria, tanto per intenderci, garrone o lavapiatti, mentre sono un rilevatore di mercato che lavora con terminali. Devo avere una DSL, devo avere uno smartphone, devo usare il mio mezzo. In buona sostanza mi si taglia lo stipendio del 40-50%, perché la riforma del lavoro viene, i costi, diciamo, sì, vengono tutti accollati sulle nostre spalle. Allora Laura, questo tra l'altro non è esattamente il tema di oggi. Noi ne abbiamo già parlato anche di tutta quella partita di stabilizzazione di molti contratti simili al suo, appunto, che significa per tutti i lavoratori interessati appunto essersi stabilizzati, ottenere dei contratti a tempo indeterminato da parte delle aziende, ma naturalmente a condizioni nettamente peggiorative rispetto a quello che stanno vivendo. Questa non è, come dire, una truffa, è un'opportunità che so che non piace a molti, ma è comunque un'opportunità offerta dalla riforma del mercato del lavoro. Se volesse, noi magari le possiamo suggerire di andarsi a risentire la nostra trasmissione che abbiamo dedicato a questo argomento, adesso magari con Marco Lombardo, forse 2 settimane fa l'abbiamo fatta, però ecco, mi rendo conto che è molto frustrante, però qualche volta appunto la come dire, condizione di stabilizzazione passa anche attraverso questo. Banche dati. Alcune società richiedono somme di denaro per l'inserimento dei dati personali del candidato o per mantenere il suo curriculum attivo in elenchi destinati alle aziende in cerca di personale. Probabilmente nessuna azienda vedrà quel curriculum. Corsi di formazione. Vi propongono l'iscrizione a un corso di formazione finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro, organizzato da soggetti non riconosciuti dalla pubblica amministrazione. Ma spesso, con semplice presa d'atto del Ministero dell'Istruzione, una simile formula significa soltanto che al Ministero è stata inoltrata una richiesta di autorizzazione. Potrebbe trattarsi di un corso di scarsa qualità e senza alcun tipo di sbocco professionale. Ci sono anche false borse di studio. Coprono una piccola parte del costo completo del corso, che per la restante parte rimane a vostro carico. Inoltre, i titoli rilasciati al termine dei corsi spesso non hanno alcun valore. E questo era Renato Zero, e quelle che vi abbiamo proposto erano alcune pillole, un altro gruppo di esempi di situazioni alle quali prestare molta attenzione se siete alla ricerca di un lavoro. Questo è un momento molto delicato, perché effettivamente si fa fatica ad individuare un interlocutore serio, gli annunci di lavoro sono a volte molto e troppo generici, effettivamente qualcuno si imbatte a volte anche appunto in esperienze che si concludono con non tanto totale insoddisfazione da parte di chi cerca, ma addirittura a volte incontrando proprio dei personaggi assurdi. E questo è un momento in cui anche molti osservatori di questo settore stanno cercando di proporre nella maniera più attenta possibile sui giornali, o stanno facendo con grande attenzione anche le associazioni dei consumatori, appunto tutti quei consigli utili per non cadere in queste trappole, per l'appunto. Anna Maria Mazzini, marketing manager di infojobs.it, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, Debra. Il vostro è il primo portale italiano per l'offerta di lavoro, leader per traffico internet, numero di offerte attive e curricula in banca dati. Intanto, per le persone che cercano lavoro e magari volessero appunto essere inseriti con le loro caratteristiche, i loro requisiti professionali nella vostra banca dati, voi chiedete del denaro? Assolutamente no. Tutti i servizi per i candidati sono completamente gratuiti. Quindi questa è già, per esempio, un'informazione da dare ai nostri ascoltatori. È fondamentale. Se un portale di ricerca che si appunto reputa professionalmente idoneo a fare questo lavoro chiede del denaro, già bisogna essere un po' insospettiti? Sì, quantomeno bisogna iniziare a fare qualche verifica più approfondita. La scelta del sito a cui affidarsi o comunque con cui iniziare la ricerca di lavoro è fondamentale. Ecco, per quello che riguarda invece le aziende delle quali appunto proponete e veicolate l'offerta di lavoro, anche lì come fate a controllare che le loro proposte siano serie? Allora, InfoJobs, proprio come primo sito in Italia, è molto attento a tutta quella che è la qualità dei contenuti che pubblica e delle aziende a cui consente la pubblicazione. Abbiamo un team di persone dedicato a quello che noi chiamiamo la validazione delle aziende. Questo significa che nessuna azienda può iniziare a pubblicare offerte di lavoro prima di essere stata verificata da noi. Ogni singola registrazione viene verificata da persone che chiamano le aziende, verificano negli archivi delle camere di commercio che l'azienda esista, che i referenti che sono inseriti sul sito siano persone reali, c'è proprio una conversazione telefonica che serve a capire che l'azienda sia seria, che sia reale e che quindi le proposte che poi noi andiamo a rendere pubbliche sulle nostre pagine siano affidabili. Non vi è mai capitato di intermediare l'offerta di un'azienda che poi si è rivelata poco seria invece nella sua proposta? E cosa avete fatto qualora vi sia capitato? Noi quello che mettiamo a disposizione anche di tutti gli utenti è un servizio di appunto verifica di segnalazioni. Abbiamo diversi form sul sito, entro 24 ore rispondiamo a tutte le segnalazioni che riceviamo e andiamo a verificare tutti i casi in cui ci fosse eventualmente una discordanza tra quello che è la descrizione dell'offerta e quello che poi il candidato si trova. Quindi diciamo che ancora prima di arrivare alla truffa vera e propria ci possono essere anche delle situazioni, come dire, ecco, di scarsa trasparenza e chiarezza. E quello che può accadere è in effetti che ci sia una differenza tra quella che è la descrizione e quello che poi il candidato si trova a dover fare in colloquio, ma non tanto per una cattiva fede da parte delle aziende, io questo mi sento di sottolinearlo, quanto magari perché le aspettative erano altre. Sì, magari scrive un annuncio in una maniera un pochino veloce, quindi la discordanza può essere per una mancanza di approfondimento, quindi non so, una posizione viene descritta in maniera abbastanza generica e poi andando più nel dettaglio le aspettative di chi cerca lavoro e di chi cerca persone non sono poi allineate. Certo. Ma tutto ciò che è la truffa o comunque un contenuto davvero poco chiaro, poco trasparente, da noi viene bloccato prima di andare online. Walter Passerini, il pilota del quale hai portato la testimonianza sul tuo pezzo di ieri sulla stampa, invece voleva proprio fare il pilota e questa promessa aveva avuto alla società alla quale si era rivolto. Diciamo che il mestiere di pilota è molto ambito dai ragazzi. La scuola di volo era inglese, si viene appunto invitati da un lato a versare una cifra e quindi qui già puzza di bruciato, e poi in secondo caso addirittura si viene poi invitati in un luogo per fare un colloquio e in realtà nel luogo che è in una periferia di una cittadina inglese, il luogo, a quel luogo non risponde quel tipo di società. Io volevo soltanto dire questo, che per le aziende c'è un problema in qualche caso quando fanno le inserzioni, appunto fanno delle inserzioni di marketing e quindi in qualche modo c'è dentro qualche tentativo di attirare attraverso frasi e linguaggi che non sempre trovano riscontro, perché il problema del demansionamento piuttosto che il problema dell'abuso di diritto, di formule contrattuali, cioè una falsa partita IVA, un falso contratto a progetto e così via, purtroppo si stanno diffondendo molto. E più che di truffe parlerei di abuso di diritto. Per quanto riguarda le persone, ecco, io suggerisco non state da sole. La solitudine è il peggior nemico di chi cerca un lavoro. Parlatene, raccontate anche gli episodi brutti che vi possono essere capitati, e in particolare questo riguarda anche noi giornalisti, cioè noi dobbiamo parlare continuamente, con una frequenza maggiore, proprio perché attraverso la conoscenza, l'informazione delle persone, ecco, i truffatori riusciamo a combattere. Esatto, magari se si ha un'esperienza in corso di questo tipo e si ha il dubbio di avere a che fare con una persona più o meno seria, magari ecco, sentendo una trasmissione, leggendo qualcosa sui giornali, stando un po' più attenti, si può avere maggior chiarezza e lucidità anche nell'affrontare social network, senza alcun pudore, raccontando, perché a volte le persone hanno vergogna, se hanno subito una truffa hanno vergogna a parlarne. E invece queste situazioni vanno totalmente denunciate, come stanno facendo gli ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24. Carlo da Roma voleva fare un lavoretto a domicilio e cosa le hanno chiesto dopo aver risposto a questo annuncio sul giornale? Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, ho risposto a questo annuncio, mi hanno mandato una lettera nella quale mi si spiegava in larghe linee quello che sarebbe stato il lavoro, si trattava di confezionare dei pupazzetti di peluche e niente, praticamente richiedevano 70 euro per inviare appunto il materiale per confezionare questo pupazzetto di prova. Io ho risposto affermativamente, mi hanno mandato questo pupazzetto, ho pagato i miei 70 euro, l'abbiamo confezionato, l'abbiamo rispedito. Dopo un po' di tempo ci è arrivata una lettera che diceva che la prova era soddisfacente e che presto si sarebbero fatti vivi. È passato un anno e non si sono fatti vivi. Beh, però almeno quello che ha confezionato lei, Carlo, andava bene. Almeno quella hanno avuto la cortesia e la gentilezza di risponderle per dirle che quello che aveva confezionato andava bene. Carlo, grazie molte per la sua testimonianza, speriamo che nel frattempo per lei le cose siano cambiate. Riesco a farci mettere dentro, a metterci dentro anche Stefano da Firenze, che invece, bel ragazzo, voleva fare il modello e naturalmente gli serviva il book fotografico. Stefano, buongiorno. Buongiorno, no, perché modello, io cercavo un secondo lavoro e mi presentai, mi dissero che appunto si trattava di modello e tutto, e mi fecero una prova lì con la macchina fotografica, mi dissero che ero fotoigienico, poi avevo 18 anni, quindi no, 41, e niente, mi dissero andava bene e tutto, alla fine mi disse guarda, intanto si fa il book, ti costa 2 milioni mi sembra, 3 milioni non mi ricordo, e poi si comincia a lavorare, e gli dissi e questi 3 milioni, a parte il fatto che non ce l'ho, E poi dopo quando dopo quanto le recupero questi 3 milioni? Certo, no? Insomma, quante sfilate mi garantite? Lavorare, certo. La facciamo lavorare? Io gli dico, allora fatemi lavorare. E poi man mano pago, no, non si può fare. Io avevo 18 anni, non ci cascai. Ecco, bravo Stefano. E comunque lei magari ha perso una folgorantissima carriera da fotomodello. Detto questo, magari per quel tipo di lavoro lì sicuramente fare un piccolo investimento per poter avere questo book e presentarsi all'agenzia è necessario. Dipende qualche volta anche che tipo di costi ti propongono. Forse un'agenzia seria te lo fa un investimento su di te se ti se individua delle qualità, chiaramente in questo caso soprattutto estetiche. Poi questo mondo, io non essendo esattamente un fisico da fotomodella, non l'ho mai frequentato, però probabilmente funzionerà così. Book fotografico, vi attira il mondo dello spettacolo, della pubblicità o della moda? Attenti alle agenzie di casting che promettono contratti strabilianti a patto che si commissioni loro la realizzazione del proprio book fotografico. Associazioni in partecipazione. Si firma quello che sembra essere un normale contratto di lavoro, ma in realtà si tratta di un contratto di associazione in partecipazione. Il compenso mensile non è uno stipendio, ma un anticipo sugli utili della società, generalmente una percentuale molto bassa, e non si ha diritto al versamento dei contributi previdenziali. Trasferimento di denaro. Fornendo le proprie coordinate bancarie, si riceve un bonifico. Si trattiene la percentuale pattuita come compenso e si trasferisce tutto il resto secondo le istruzioni ricevute. Il problema è che quei soldi sono il frutto di attività illecite e che collaborare al loro trasferimento significa rendersi complici di un reato. Ecco, e questa è una cosa molto interessante da approfondire, perché in casi estremi, adesso a parte il trovare il furbone di turno che magari insomma è il fotografo che vuole un po' arrotondare, propone a qualche persona di bell'aspetto, appunto ti faccio un bel book e poi magari ti propongo a qualche agenzia, ci sono situazioni un po' di questo tipo un po' più light, ma quando invece ci imbattiamo nei confronti di una vera e propria situazione fraudolenta, Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, voi appunto date delle indicazioni anche nel vostro vademecum su che cosa fare, no? Nelle situazioni proprio limite, perché qua abbiamo anche delle autorità alle quali rivolgerci. Ma in questo caso non si può fare altro che rivolgersi subito ai carabinieri o nel caso di offerte via web alla polizia postale, che è quella che è più vocata per questo tipo di indagini e di denunce. Via web arrivano appunto di queste proposte di fronte alle quali uno dovrebbe chiedersi perché un personaggio che io non conosco, un soggetto che io non conosco, mi chiede di ricevere dei soldi e io poi devo trattenere una percentuale versando tutto il resto. Ecco, è chiaro che il sospetto della illiceità dell'offerta deve arrivare subito nella nostra mente e la prima cosa da fare prima di impelagarci in guai più grossi è quello di segnalare la cosa all'autorità giudiziaria. C'è poi anche l'ispettorato del lavoro al quale poter segnalare delle situazioni potenzialmente o così un po' potenzialmente rischiose o poco chiare. Anche i carabinieri hanno il comando per la tutela del lavoro, anche lì un'altra figura alla quale ci si può rivolgere. Sentirei un'altra testimonianza, perché poi abbiamo un caso, appunto quello che ci propone Marta dalla provincia di Milano, che posso commentare con Anna Maria Mazzini di InfoJobs. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ascoltavo la trasmissione in verità per cercare di capire se quella in cui mi sono imbattuta era una truffa, ed è questo. Io sto cercando lavoro da un paio di mesi e mi sono registrata su questo sito che si chiama Expertir, che promette contatti diretti con headhunter o opportunità di lavoro su misura. Quindi lì io ho predisposto un alert, quindi ricevevo quotidianamente una mail che doveva contenere le offerte di lavoro profilate per me. In realtà poi quando ricevi una decina di proposte, quando vai a cliccare su quelle che hanno il titolo che sembra più accattivante appunto per il mio profilo professionale, quando andavo a scegliere quelle che mi sembravano più accattivanti, arrivavo sul sito che mi diceva però devi pagare se vuoi vedere questa cosa. Quindi lì mi sono detta ma strano, e non mi sono fermata proprio perché non riuscivo a capire se era una truffa o se ero di fronte ad un ad una società che opera serio. Così e che lecitamente opera secondo questa modalità. Marta, la ringrazio, perché anche Beatrice ci ha scritto a Salvadanaio chiocciola Radio 24 proprio citando la stessa società e lo stesso modus operandi. Anna Maria Mazzini di infojobs.it, non so se lei conosce questa società concorrente sì. E se è corretto questo questa modalità di comportamento lecito, legittimo. Ma allora credo ci sia da fare una distinzione, nel senso che appunto è un modello di business. InfoJobs ha scelto di avere tutti i servizi che offre per le persone che cercano lavoro in modalità completamente gratuita. L'altro sito che è stato menzionato no. Richiede effettivamente un pagamento e sulla base di questo pagamento dà sostanzialmente visibilità ad una serie di offerte in più che altrimenti non vengono visualizzate. Sì, volevo chiedere a Walter Passerini se ce ne sono molte di società di intermediazione che operano secondo questa modalità e se dobbiamo fare attenzione oppure se dobbiamo averne totalmente rispetto e naturalmente così condividere un po' il modo anche di loro di fare business, perché è un lavoro come un altro. Certo, è quello che si chiama il modello freemium, una parte è free, una parte è a pagamento. È vero, freemium. Anche Beatrice ce lo indica proprio con queste modalità. Sì. Allora, il problema è che queste società, parliamoci chiaro, devono avere un qualche tipo di validazione, di autorizzazione da parte del Ministero. Io diffiderei di tutti coloro che non hanno questa autorizzazione. Da noi questo è un fatto importante, mentre nel Regno Unito, per esempio, ce ne sono molte di queste banche dati, le persone pagano qualche cosa e trovano effettivamente soddisfazione perché esiste un business e esiste un mercato in qualche modo trasparente. Nel nostro paese non tutte queste società lo sono, quindi il meccanismo dell'autorizzazione ministeriale per almeno per i prossimi anni, secondo me, resta l'elemento importante. Quindi senza quel tipo di certificazione io diffiderei, anche perché poi la qualità delle aziende, io se la devo vedere soltanto pagando, beh, allora ho già capito, mentre invece se voi mi dite quali aziende sono vostri clienti, ma non me lo dite, a questo punto qui gatta ci cova, quindi starei estremamente attento da questo punto di vista. Intanto ci scrivono anche delle persone, delle professioniste, scusate che stavo perdendo la mail, adesso non riesco a ritrovarla, eccola qua, Sonia, una fotografa di Prato, moltissime ragazze, ci racconta, vengono attirate dai prezzi scontatissimi per fare book fotografici, poi vanno dal fotografo che normalmente è un abusivo, che lavora senza partita IVA e cerca pure di toccarle. Come facciamo a far capire che con 40 euro non è possibile fare un book fotografico perché la professionalità non può avere un prezzo così basso? Anche questa, grazie Sonia, è un'indicazione utile per farci capire se abbiamo di fronte a noi un professionista o un cialtrone. Quante altre cose ci sarebbero da dire questa mattina? Anna Maria Mazzini, ci dia qualche suggerimento pratico per i nostri ascoltatori per poter, sulla base delle nostre competenze e professionalità, appunto individuare l'offerta di lavoro in questo momento che fa al caso nostro, in un panorama che invece a quanto pare abbiamo scoperto stamattina è estremamente confuso e le persone in questo momento sono in un'oggettiva condizione di debolezza perché sempre di più cercano lavoro. Sì, io vorrei intanto rassicurare un minimo, nel senso che chiaramente le truffe ci sono, offerte poco trasparenti anche, è chiaro che se ci si affida comunque a dei siti che fanno di questo il loro mestiere, già qualche rischio in meno si riesce ad evitare qualche problema. Sicuramente è importante in questo momento, proprio perché comunque la richiesta di lavoro da parte di chi cerca è alta e l'offerta un pochino meno, fare attenzione alle offerte a cui ci si candida per non rimanere delusi, quindi è importante trovare delle offerte che rispondono alle proprie caratteristiche. Infatti, tra l'altro, guardate, per concludere volevo proprio indicare ai nostri ascoltatori uno dei suggerimenti che danno le associazioni dei consumatori, ma mi sembra un'indicazione totalmente di buon senso da condividere al 100%. Io mi rendo conto che se uno da un giorno all'altro si trova senza lavoro deve accettare magari a volte la prima offerta che gli capita perché non può rimanere senza stipendio, però Un'indicazione utile è questa: prendetevi tutto il tempo necessario per riflettere e verificare la validità e l'autenticità dell'offerta. Diffidate di chi ha fretta di farvi concludere. Con questa raccomandazione io saluto e ringrazio Walter Passerini, Anna Maria Mazzini e Antonio Longo per essere stati con noi, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Gianmarco Ferronato per l'assistenza tecnica. Salvadanaio torna domani, a tutti buona giornata.